L'abbiamo chiamata Generazione I con un punto di domanda, perché è la domanda che ci siamo posti. Sono su internet, sono sugli smartphone e quindi si dicono, perché lo dicono ai rilevatori, di essere internazionali sulla carta, perché poi nel momento in cui chiediamo loro: perfetto, vuoi partire per un anno di studio all'estero? Non c'è lavoro, vuoi andare a lavorare almeno per 2 anni all'estero? La risposta è: ma guarda, quasi quasi no, preferisco stare a casa mia. Dando dei numeri emerge che sono di più i tradizionalisti, 27%, che non invece quelli più progressisti, globetrotter, determinati, che sono 25%. Quindi la scuola bocciata perché non è internazionale. Però, insomma, guardiamoci anche un po' in casa, perché questi ragazzi alla fine, anche perché vengono cresciuti in questo modo dal contesto familiare, se non che anche quello della scuola, credono un po' di più nei soliti importantissimi valori della famiglia, dell'amicizia, eccetera, ma se gli chiedi: tu sei intraprendente? La risposta la danno solo il 9%. E se vanno all'estero non vanno tanto lontano. Se vanno all'estero, assolutamente sì, bisogna andare, però magari un paio di settimane d'estate in Inghilterra. Quelli che si rimboccano le mani e vanno, le maniche, vanno per un anno in Cina, in India, in America Latina, sono pochi. Sono sempre tanti, però stanno crescendo e stanno dando delle testimonianze bellissime. Quindi alla fine noi crediamo che la generazione I del 2012 sarà sempre più folta e piena di ragazzi con la voglia di partire.